niente ti guarda e poi si fa tanta fatica. Che senso ha un orso bianco invece che un orso bruno? Che senso fa questa canzone qua? Che senso ha pensare di rifarti il cervello?